Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se anche la Nutella, possiamo nominarla, tanto conosciuta di tutto il mondo, vive una crisi, un calo di vendite, evidentemente la crisi è davvero completamente, inesorabilmente conclamata. C'erano già mille altri segnali che ce lo dicevano, ma a questo punto, se anche la Nutella scende, evidentemente la crisi c'è. E a proposito di dolciumi, il Presidente del Consiglio Letta ha detto in giornata ai dipendenti di Palazzo Chigi: se lavoreremo bene mangeremo panettone anche l'anno prossimo. Secondo voi Letta e i suoi mangeranno panettone anche nel 2014? Adesso a dire che vi interessa, insomma, se potrà avere a disposizione un dolce di Natale, voi ritenete che sia possibile che arrivi fino a quella data? E poi ci sono altri temi sui quali vi potete naturalmente esprimere, quelli che tratterò man mano nella puntata di questa sera, per esempio su questo decreto legge che è stato varato proprio in serata dal Consiglio dei Ministri, che svuoterà in parte le carceri. Usciranno tra i 3.000 e forse 7.000 detenuti, se contiamo anche le misure che sono state prese negli ultimi mesi. Dice Letta: non c'è nessun pericolo per i cittadini, non vi preoccupate, voi vi fidate. Quindi tra panettone e fiducia, per voi i canali per le vostre opinioni sono la pagina di Effetto Notte, pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure messaggi al 349-238-6666. Ma cominciamo allora a raccontare la giornata. Consiglio dei Ministri, come vi dicevo, il governo approva il decreto legge sulle carceri e norme per processi più veloci. La riforma elettorale si fa con chi ci sta, dice Renzi, e chiede al governo di eliminare la web tax. Kiev è sempre più lontana dall'Europa. Mosca si compra, diciamo così, l'Ucraina, facendole un grosso sconto sul prezzo del gas. Siria, di 18 scolari e due maestre uccise, il bilancio di un raid aereo su una scuola primaria in un sobborgo di Aleppo, compiuto ieri dalle forze governative siriane, lo denuncia la Coalizione Nazionale Siriana, che è la principale piattaforma dell'opposizione. Papa, anche per i gay americani, Francesco è la persona dell'anno. Il calcio, moltissime cose, corri allo stadio, chiuse le curve di Roma-Inter, che fa sapere che presenterà ricorso, condizionale alla Lazio, e per le partite truccate indagati Gattuso e Brocchi, 4 arresti, sospetti su 30 partite di Serie A. L'ex nazionale Gattuso dice: sono arrabbiato, offeso ma sereno, e per Calciopoli 2 anni e 4 mesi nel processo d'appello a Moggi. Partiamo quindi dal Consiglio dei Ministri di questa sera, che ha approvato un decreto sulle carceri per alleggerire il sovraffollamento dei penitenziari e un disegno di legge sul processo civile. Le nuove norme in materia di giustizia civile proposte dalla Guardia Sigilli Anna Maria Cancellieri hanno come obiettivo procedure più snelle per abbattere i tempi lunghi, lunghissimi dei processi. Ma sentiamo cosa ha detto il Presidente del Consiglio Letta. Il governo interviene con un duplice intervento. Da una parte si cerca di dare risposte alla terribile situazione di sovraffollamento delle carceri senza che questa risposta abbia in nessun modo elementi di pericolosità per i cittadini. E in secondo luogo si svolge un intervento che serve a accelerare la giustizia civile, il processo civile, e per l'appunto rendere il nostro paese un paese nel quale si riduca il terribile arretrato di procedimenti e si riesca quindi a dare giustizia nei tempi giusti. Intanto si continuano ad accumulare le proposte di modifica, cioè gli emendamenti alla legge di stabilità. Dagli esodati al fondo tagliacuneo, dalle pensioni alla mini-IMU, prende forma la legge di stabilità che domattina approda nell'aula della Camera. Rush finale della commissione bilancio, che nelle ultime ore ha dato via libera a importanti emendamenti. In arrivo l'istituzione del fondo per la riduzione della pressione fiscale, finanziato con i risparmi aggiuntivi derivanti dalla spending review e risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. E poi 950 milioni di euro a tutela di 17.000 esodati tra il 2014 il 2020, un tetto di 300.000 euro al cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro per i dipendenti pubblici, proroga per gli incentivi alle aziende in crisi, estensione di quelli per il fotovoltaico e ancora via libera al rinvio dal 16 al 24 gennaio della mini IMU, mentre salta il tetto massimo dell'1 per 1000 inserito alla Camera per la TASI, che torna così al 2,5 per 1000. Verrà infine ritirato l'emendamento del governo sulla Consob, cioè la proposta di portare da 3 a 5 i suoi componenti. Le votazioni cominceranno domani alle 15, poi un altro passaggio in Senato e il via libera definitivo potrebbe arrivare entro Natale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sulla legge di stabilità interviene anche Renzi. Chiediamo al governo Letta, dice, di eliminare ogni riferimento alla web tax e porre il tema dopo una riflessione sistematica nel semestre europeo. Lo chiede appunto il segretario del PD Matteo Renzi, che ha risposto alle domande dei follower oggi su Twitter. Pronti a discutere nel merito con gli alleati di governo un patto di coalizione, ma, dice, le riforme costituzionali e la legge elettorale si fanno con tutti. E poi passiamo a parlare di crisi, perché procede ancora il calo dei prestiti bancari a famiglie e imprese, che a novembre hanno segnato una riduzione del 4%, cioè il peggior dato dal giugno 1999. Salgono ancora le sofferenze bancarie, salite a 147 miliardi di euro. E secondo l'OCSE l'Italia è al quarto posto tra i paesi industrializzati per il peso del fisco, che nel 2011 viaggiava al livello del 44,4% del PIL. La pressione fiscale maggiore è in Danimarca, al 48%, davanti al Belgio e alla Francia, entrambi al 45,3%. E adesso le proteste di piazza. Dopo le manifestazioni di oggi, la capitale si prepara a quelle di domani, che è stato infatti confermato il presidio dei Forconi, che anche oggi hanno manifestato in varie città d'Italia. E c'è l'inchiesta sul calcio scommesse, con nuovi arresti e nuovi particolari. Un'organizzazione internazionale che operava nel dietro le quinte della nostra Serie A, ma che puntava pure al Brasile. In Italia ci hanno provato fino alla fine a manipolare 90 match, compresi una trentina di A di Juve, Inter e Milan. Contemporaneamente a Singapore i referenti asiatici di questa organizzazione già pensavano ad interventi illeciti sui campionati del mondo. C'è tutta la dimensione globale del calcio scommesse nelle 212 pagine dell'ordinanza del GIP di Cremona, che ha portato in carcere 4 persone, messo sotto accusa pure 4 partite del 2013 di A come Palermo Inter e fatto finire nel registro degli indagati altri nomi eccellenti come l'ex milanista Rino Gattuso e l'ex laziale Cristian Brocchi, accusati di truffa e frode sportiva. Devono rispondere tra l'altro di quei contatti con Bazzani e Spadaro, il CIV e il vecchietto delle intercettazioni, arrestati perché anello di congiunzione tra società e scommettitori. Così prima delle partite telefonate e SMS aumentavano, come quello mandato a Gattuso prima di Chievo Milan o anche a Brocchi a ridosso di Milan-Lazio. Se quest'ultimo deve rispondere di 110 contatti, sono 13 quelli contestati all'ex rossonero, su cui però si allungano le ombre dei rapporti del suo amico fraterno Pipieri. C'era il rischio di manipolazione dei tornei in corso, scrive il GIP Salvini, firmando la nuova puntata di uno scandalo iniziato 3 anni fa e non ancora finito. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E dopo ne parleremo ulteriormente, sentiremo anche la reazione di Gattuso. Adesso spostiamoci all'estero, con l'Ucraina che si allontana sempre di più dall'Europa e si stringe ancora di più invece la Russia, nonostante le proteste di piazza che continuano da giorni. Putin ha battuto l'Unione Europea nella contesa per l'Ucraina. L'incontro di oggi a Mosca tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Viktor Yanukovych ha suggellato il riavvicinamento dell'Ucraina alla Russia. Ma quello che colpisce è l'entità degli aiuti offerti dal Cremlino, a fronte dei quali non ci è ancora dato di sapere che cosa ha promesso Yanukovych. Il presidente ucraino torna a casa con uno sconto di un terzo sui prezzi del gas russo, che scendono da 400 a 268,5 dollari per 1000 metri cubi. Ancora più incredibile la somma che Putin si è detto disposto a scommettere per riprendere il controllo dell'ex Repubblica Sovietica. 15 miliardi di dollari verranno investiti in bond a sostegno del budget ucraino. Putin li prenderà dal fondo sovrano accumulato per affrontare i periodi di calo dei prezzi del petrolio, e questa è una cifra consistente nel momento in cui anche per l'economia russa le prospettive non sono rosee. Resta da capire che cosa si è fatto promettere in cambio lo zar Putin da Yanukovych, che intanto torna a casa ad affrontare l'ira dei dimostranti filoeuropei. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. La talpa del Datagate, Edward Snowden, ha chiesto asilo politico al Brasile. L'ex analista della NSA promette di collaborare con le indagini in corso nel paese sudamericano sulle attività di spionaggio, come le intercettazioni a danno della presidente Dilma Rousseff e della compagnia petrolifera nazionale Petrobras. E proprio oggi il servizio di spionaggio NSA ha detto di aver bloccato 54 tentativi di attentato terroristico, di cui un quarto negli Stati Uniti e il resto in Europa. Parliamo anche del compleanno del Papa, che compie oggi gli anni, e anche i gay americani dicono che Francesco è l'uomo dell'anno. 70° compleanno per Jorge Bergoglio. Papa Francesco però lo ha festeggiato restando fedele a se stesso. Ha preferito infatti vivere una giornata normale, iniziata con una celebrazione nella chiesetta di Santa Marta, seguita da una colazione con quattro clochard, uno dei quali accompagnato dal suo fedele amico a quattro zampe. Intanto gli auguri al pontefice sono arrivati da tutto il mondo. Il primo regalo per il Papa gli è stato però consegnato martedì sera, quando la sua squadra del cuore, il San Lorenzo, ha vinto lo scudetto argentino. Una delegazione di dirigenti e calciatori della squadra andrà a trovare il pontefice per consegnargli l'ambito premio. Dopo l'elezione a Uomo dell'Anno di Bergoglio da parte della rivista Times, anche la comunità omosessuale americana ha voluto ringraziare il pontefice per le sue frasi rivolte agli omosessuali cattolici. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Così, sulla rivista The Advocate, giornale storico della comunità gay, lesbica, transgender americana, Bergoglio è stato nominato di nuovo Uomo dell'Anno. Leonardo Rossi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si torna a parlare di Lampedusa, poiché sono molte le reazioni in Italia e nel mondo al filmato che mostra una specie di disinfestazione dei migranti nel centro di accoglienza dell'isola. Le immagini trasmesse dal TG2 dei migranti nudi al freddo, in fila e innaffiati con le pompe per una disinfestazione da scabbia nel centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa hanno provocato una valanga di reazioni in Italia e nel mondo. Dal governo il vice premier e ministro dell'interno Angelino Alfano assicura che le responsabilità saranno accertate e chi ha sbagliato pagherà. Entro 24 ore, ha spiegato Alfano, il prefetto di Agrigento avrà la relazione che ha chiesto all'ente che gestisce il centro sull'isola. Sdegnata anche la presidente della Camera, Laura Boldrini, che parla di trattamento indegno di un paese civile. Cose inaccettabili in uno Stato democratico, anche per il ministro dell'integrazione Cécile Kyenge. Invece l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto al governo italiano soluzioni urgenti per migliorare gli standard di accoglienza nel centro di Lampedusa. Nel frattempo procedono le operazioni di salvataggio di circa 100 migranti localizzati su un barcone a sud dell'isola. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora una notizia che riguarda l'emergenza rifiuti in Campania. È stato chiesto giudizio per Pansa, Bassolino e Bertolaso. Tonnellate di percolato finite in mare perché smaltite in depuratori obsoleti e malfunzionanti che non erano in grado di trattare i liquami prodotti nelle discariche e nei vari impianti. La Procura di Napoli quindi ha chiesto il rinvio a giudizio per 39 persone e 10 aziende con accuse che vanno dall'associazione a delinquere al traffico di rifiuti. Tra gli imputati molti nomi eccellenti, dal capo della polizia Alessandro Pansa all'ex governatore Antonio Bassolino, all'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, al prefetto Corrado Catenacci. Ad accumularli è la carica di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti che tutti hanno rivestito negli anni scorsi. Chiudiamo con il calcio. Ci sono nuove decisioni del giudice sportivo contro alcune squadre di Serie A per le loro tifoserie. Chiuse per due turni le curve di Inter e Roma, un turno per quella della Lazio ma appena sospesa con la condizionale. Le ragioni ancora una volta sono la discriminazione territoriale e i cori razzisti dei tifosi. Una decisione che peserà soprattutto per i nerazzurri, visto che domenica prossima, 22 dicembre alle 20:45, li attende il derby in casa con il Milan. Curva nord interista chiusa anche contro il Chievo lunedì 13 gennaio. Per la Roma invece curva sud chiusa, causa i cori contro il milanista Balotelli nelle gare interne contro Catania, sempre domenica prossima. Prossima è Genoa, domenica 12 gennaio alle 15. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo abbiamo ricostruito quindi buona parte della giornata. Adesso c'è la viabilità e poi entriamo nel vivo di alcuni temi. Due ve l'avevo lanciati, per esempio, se appunto Letta dice mangeremo, se lavoriamo bene, mangeremo il panettone anche l'anno prossimo, e vedo già un messaggio di Daniele da Roma che dice mangeranno il panettone ma a casa loro. Invece sulla questione delle carceri, con questo decreto legge che è stato approvato questa sera in Consiglio dei Ministri, che dovrebbe far uscire almeno 3.000 detenuti, se ad uscire fossero solo i truffatori ed evasori, anche sì, dice un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, ma tra questi 3.000 ci sono anche violenti, un provvedimento ingiusto e profondamente sbagliato. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prima allora di avventurarci man mano nei diversi temi, vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, quali sono stati i fatti principali della giornata. partire dal Consiglio dei Ministri che in serata ha approvato il decreto di legge sulle carceri e norme per processi più veloci. E poi la riforma elettorale, dice Renzi, si fa con chi ci sta e chiede al governo di eliminare la web tax. Kiev è sempre più lontana dall'Europa. Mosca si compra l'Ucraina facendole un grosso sconto sul prezzo del gas. Siria, di 18 scolari e due maestre uccise, il bilancio di un raid aereo su una scuola in un sobborgo di Aleppo, lo denuncia la coalizione nazionale siriana, che è la principale piattaforma dell'opposizione. Papa, anche per i gay americani, Francesco è la persona dell'anno. E per quanto riguarda il calcio, cori allo stadio, chiuse le curve di Roma e Inter, fa sapere che presenterà ricorso, condizionale al Lazio, e per le partite truccate, indagati Gattuso e Brocchi. Ma parliamo anche di questioni economiche, finanziarie. Avete sentito la legge di stabilità che domani dovrebbe fare avere il rush finale, ma soffermiamoci su alcune notizie di oggi. C'è Gianni Trovati del Sole, che buonasera, è venuto a trovarci. Allora, te ne dico qualcuna di oggi, Gianni, poi tu traduci. Allora, banche, c'è stata questa nuova gelata sul credito che le banche italiane concedono alle famiglie e alle imprese, con un meno 4% a novembre, che segna il dato peggiore dal 1999. Poi l'Istat che lancia l'allarme per 540.000 che over 50 che sarebbero senza contributi, quindi immaginate che tipo di pensione potrebbero mai avere. C'è di buono che, a proposito della legge di stabilità in discussione, c'è stato il via libera al taglio del cuneo fiscale. Poi capiremo se di qua, se di 14 euro in busta paga o cosa. E poi questa cosa strana, che poi se vuoi ne parliamo bene, non ho capito bene di cosa si tratta, a proposito di un disegno di legge che riguarda Banca Italia, spunta un condono edilizio, sempre molto evocative sono queste espressioni, condono edilizio. Però prima ci rilassiamo e sentiamo un po' di Crozza, va? E conviva e vibrante Crozza soddisfazione napolitano. Che vi ricordo che io volli accomiatarmi da voi, ma che foste voi a rivolermi qui per un alto e gravoso secondo incarico, che io, con viva e vibrante, avevo già prenotato la pensione Marisa Capri, che fa una parmigiana da Dio, ivi compresi 200 euro di viva e vibrante caparra già versata. Oggi da più parti mi si accusa ingiustamente di aver superato i limiti costituzionali. Ora mi chiedete un passo indietro, mentre prima mi avevate chiesto un passo in avanti. Sono i segni tipici della lambada. Vabbè, allora, insomma, Gianni Trovati, prima di affrontare questi argomenti così impegnativi, così ci siamo un po' distratti, da dove cominciamo? Da questa gelata sul credito delle banche? Allora, sì, gelata sul credito, meno 4%, vuol dire che si assottigliano sempre di più i flussi di credito concessi dalle banche alle imprese, alle famiglie, ma anche perché probabilmente una parte di questa flessione è legata al fatto che diminuisce anche la domanda, nel senso che, essendo l'economia in rallentamento ulteriore, diminuisce anche la domanda. Il meno 4% è da segnalare, è rispetto a una tendenza che già è in discesa da parecchio tempo. Oggi l'ha detto l'ABI, questo è l'outlook mensile dell'ABI, ma ci sono i dati Banca Italia, insomma è tutta una sequela di dati in peggioramento che fa vedere come, come dire, i venti di ripresa, chiamiamoli così, dell'economia reale siano ancora molto lontani. In più, sul tema delle banche è intervenuto il decreto che ha cancellato quasi tutta la seconda rata dell'IMU sull'abitazione principale, prevedendo una sorta di stangata fiscale con un aumento molto potente degli acconti, ma anche un aumento solo per banche, assicurazioni eccetera, dell'imposta sulle società. C'è un 8,5% in più che loro pagano di IRES rispetto a tutte le altre imprese. Questo naturalmente come dire, pone un nuovo blocco su un'attività che per vari fattori è già molto molto infrenata, è che se non ripartono i prestiti alle imprese e alle famiglie, non riparte l'economia, perché i prestiti alle imprese sono per gli investimenti, anche se recenti indagini, soprattutto sulle piccole e piccolissime imprese, un quarto dei prestiti sono chiesti per pagare le tasse, il che come dire è preoccupante. Sì, anche perché è un circolo vizioso che non ha termine. I prestiti alle famiglie, i primi, i più classici, sono quelli dei mutui per l'acquisto delle case. L'edilizia è ferma, il mercato è fermo, e naturalmente è uno dei segnali, diciamo, più preoccupanti della crisi che continua. Senti, invece il taglio del cuneo fiscale, cioè appunto la differenza tra quanto un datore di lavoro versa in busta paga e quanto poi il lavoratore si ritrova effettivamente in tasca, ti sembra che a questo punto sia un po' più cospicuo questo no, taglio? No, oggi in realtà siamo passati appunto dai 14 euro al mese previsti per chi ne prendeva 15.000 nell'originaria legge di stabilità, siamo passati a 18-19. Il vero passaggio che doveva esserci oggi era la previsione di un fondo automatico in cui sarebbero confluite tutte le risorse della spending review e quelle della lotta all'evasione, fondo automatico che poi doveva essere destinato alla riduzione ulteriore delle imposte su imprese e lavoratori. Tutti questi automatismi che erano stati chiesti a gran voce da tutte le parti sociali, anche dal Sole 24 Ore, e a cui il governo aveva promesso una risposta positiva, sono in realtà saltati, perché nell'emendamento che è stato approvato si prevede che alla riduzione del cuneo fiscale vadano solo le risorse che rimangono sostanzialmente dopo aver fatto tutto il resto, cioè le spese inderogabili, le missioni internazionali, il 5 per 1000, bla bla bla bla bla. Quindi bruscolini forse. Se rimane qualcosa può andare alla riduzione del cuneo fiscale. Questo indica che non si è probabilmente capito l'emergenza, non si è capito il fatto che come dire, il livello di urgenza di intervenire proprio su questo, che è il freno fondamentale a qualsiasi ipotesi di ripresa, perché è il costo del lavoro, cioè la distanza sostanzialmente tra quello che l'azienda paga per il lavoratore e quello che il lavoratore percepisce è ancora enormemente più alta rispetto agli altri paesi europei. Tutti l'OCSE, l'Unione Europea, tutti quanti, tutte le sigle autorevoli del mondo dicono da anni all'Italia, e hanno infittito le richieste in questi mesi: abbattete le tasse sul lavoro e semmai aumentate le imposte patrimoniali. Noi abbiamo abolito l'IMU, cioè l'imposta patrimoniale, per così dire, perché alla fine abbiamo semi abolito l'IMU per un anno, tra l'altro, quindi solo per il 2013, perché poi ritornerà la TASI molto vigorosa nel 2014, e per farlo abbiamo aumentato gli acconti sulle imposte sui redditi dei lavoratori e sui redditi delle imprese. Per le banche abbiamo anche aumentato appunto, come dicevamo, l'aliquota, quindi abbiamo fatto l'esatto contrario. E in virtù di tutto questo, quindi, secondo te Letta mangerà il panettone l'anno prossimo? L'anno prossimo mi sembra francamente complicato da immaginare. Ha mangiato quello, sta mangiando in questi giorni. Ma lui già, quello già di vede quest'anno, quello lui prossimo, già i canditi, è giusto, l'ottimismo, diciamo, aiuta. Aiuta chi lo nutre. Sarebbe bello che mangiasse il panettone anche l'anno prossimo, avendo però imposto un cambio di passo al suo governo e alla sua maggioranza, perché appunto in questa legge di stabilità al momento di cambi di passo non ce ne sono, e questo, che era la promessa fondamentale, rischia di trasformarsi in una nuova delusione. Un'ultima cosa, Gianni Trovati, questa che io nella mia ignoranza non ho capito: nel disegno di legge sulla Banca d'Italia spunta un condono edilizio, lo prevede un emendamento dei relatori al testo appena presentato in commissione finanze a Palazzo Madama. Mi chiedo che cosa c'entrino le due cose associate, Banca Italia e condono edilizio. Ormai nei decreti, diciamo, si infilano di tutto. Il decreto si chiama IMU Banca Italia, perché è quello che abolisce la semi abolisce la seconda rata dell'IMU e attua la rivalutazione delle quote di Banca Italia, il tutto nello stesso decreto. Vedremo ora in che consisterà questo emendamento emendamenti sul condono edilizio spuntano sempre, puntuali a ogni decreto. Poi in genere, diciamo, l'onda di indignazione poi prevale e speriamo, di solito viene ritirata. Anche perché nel frattempo c'è nella legge di stabilità, che sta alla Camera, un emendamento che aumenta la TASI per le cosiddette case fantasma, cioè quelle non accatastate, cioè proprio quelle che dovrebbero essere poi le beneficiarie dell'emendamento invece sul condono edilizio. È vero che ormai quello che fa la mano destra e quello che fa la mano sinistra viaggiano in maniera assolutamente indipendente, perché il caos normativo è a livelli record, però insomma speriamo che poi la cosa riprenda un quadro razionale. Gianni Turati, io ti ringrazio. Grazie a voi. È stato chiarissimo. Proseguiamo tra poco, adesso c'è la pubblicità e voi potete continuare con i vostri commenti al 349-238-6666, sia su sul panettone di Letta per l'anno prossimo, sia sulla questione del decreto svuota carcere. Dovrebbe uscire, abbiamo detto, 3.000, ma Letta dice fidatevi, non c'è nessun pericolo. Ecco, capire il vostro stato di fiducia in questo senso. Anche sentiamo solo ancora qualche battuta di Crozza prima di... Signore, a ballare Rari Galli, perché poverino ci ha rimesso la caparra della pensione Marissa e non voglio che perda la caparra. Buon Natale italiani, buon Natale giovani. Questo è il Papa, ci salutiamo così con lui, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, Roberto Giordano sempre con voi, c'è sempre con voi anche la pagina Facebook se volete fare i vostri commenti, la pagina di Effetto Notte, oppure per i messaggi 349-238-6666. Insomma, qualcuno insomma, che dice cose un po' pesanti sul panettone, che dice che gli vada di traverso, se no povera Italia, scrive Piero. E poi spero che non mangi nemmeno quello di quest'anno, la solita vecchia politica solo fatta da quarantenni, nessun cambiamento, molte chiacchiere come dimostrato da quel giochetto delle tre carte che la legge sul finanziamento dei partiti, una presa in giro, dice un ascoltatore, a proposito dell'affermazione ottimista del Presidente del Consiglio Letta, che dice se lavoriamo bene mangeremo il panettone anche l'anno prossimo. Adesso però vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi, perché ogni tanto insomma, qualcuno accende la radio così perché prima aveva altre occupazioni, e poi entriamo in un altro argomento che riguarda i treni. Il Consiglio dei Ministri che ha varato in serata il decreto legge sulle carceri, lo svuota carceri, dovrebbe uscire 3.000 detenuti e poi le norme per i processi più veloci. La riforma elettorale sulla quale Renzi dice si fa con chi ci sta e chiede al governo di eliminare la web tax. Kiev sempre più lontana dall'Europa, Mosca si ingrazia l'Ucraina facendole un grosso sconto sul prezzo del gas, e poi il Papa che diventa un'icona anche per i gay americani che dicono Francesco è la persona dell'anno, e per il calcio Cori allo stadio, sono state chiuse le curve di Roma-Inter, che fa sapere l'Inter che presenterà ricorso, condizionale alla Lazio, e per le partite truccate indagati Gattuso e Brocchi. E poi per Calciopoli, una notizia arrivata in tarda serata, 2 anni e 4 mesi nel processo d'appello a Moggi. E adesso saluto Edoardo Zanchini, buonasera Zanchini. Buonasera. Vicepresidente di Legambiente e tra i curatori del rapporto Pendolaria 2013. Pendolaria già vi dice molto, insomma c'è poco da spiegare, sono i maltrattati e angariati pendolari di tutta Italia che sicuramente conoscono la situazione. Se diciamo che dal rapporto Pendolaria 2013, rapporto annuale di Legambiente, viene fuori un'Italia a due velocità, tra i successi da una parte della Freccia Rossa dei treni veloci e la crisi dall'altra dei treni regionali, appunto dei famigerati treni pendolari. Pare che il servizio peggiori sempre di più, Zanchini, così? Peggiora per due ragioni. Il primo è che aumentano il numero di persone che ogni giorno prende un treno per andare a lavorare o andare a studiare, quindi i treni sono sempre più pieni, soprattutto nelle grandi città. E l'altro motivo è che negli ultimi 3 anni si sono ridotte le risorse dello Stato per questi treni, in un quadro in cui nelle regioni, nelle aziende hanno granché investito. Alla fine ne viene fuori una situazione che poi chi prende il treno ogni mattina ed è quella di treni strapieni, soprattutto nelle grandi città, sempre i soliti vecchi treni, e invece meno treni sulle altre linee, cioè gli intercity, tutti gli altri treni che collegano le città, diciamo, di provincia. Ma comunque, quindi tagli ai treni, nel senso che sono sempre di meno quelli utili ai pendolari, poi sappiamo, cioè, ben poca igiene, caldo quando si è d'estate, freddo quando si è d'inverno, cioè c'è poca cura, diciamo. Ma Zanchini, da chi dipende il buon servizio legato ai treni dei pendolari? Dipende da Ferrovie dello Stato, quindi amministratore delegato Moretti, dipende dalle regioni, non è chiaro. Ma intanto la novità di questi anni è che dipende fondamentalmente dalle regioni il modo in cui è regolato il servizio, nel senso sono le regioni a realizzare i contratti di servizio con Trenitalia o con altre società, perché ci sono anche in alcune regioni alcune società che non, insomma, che non sono Trenitalia. E ci sono già delle differenze, per esempio noi nel rapporto raccontiamo come in Lombardia per esempio non ci sono stati tagli ai treni perché la regione ha investito risorse proprie, come in Emilia Romagna, in Toscana, in provincia di Bolzano, addirittura la regione ha messo risorse proprie e infatti si vede perché sono triplicati i pendolari. In altre regioni sostanzialmente quello che si fa ogni anno è arrivano dei soldi dallo Stato, quei soldi si girano a Trenitalia, se i soldi sono meno si decide dove tagliare. Diciamo l'esempio è il Piemonte o il Veneto, dove in questi anni si è tagliato. In Piemonte tra lo scorso anno e quest'anno sono state tagliate 13 linee pendolari e l'effetto è che in un anno i pendolari sono scesi di 25.000, che vuol dire che ci sono 25.000 persone che o sono costrette a prendere un pullman oppure prendono la macchina, e sicuramente non è, diciamo, per queste persone non è stato sicuramente, diciamo, un miglioramento della vita, ma anche per le altre, perché vuol dire che sono persone che girano in macchina. Zanchini, però le faccio sentire che cosa ha detto oggi il presidente della regione toscana Enrico Rossi, mi pare intervistato dalla 7, che ha viaggiato in incognito sui treni pendolari delle breve tratte della Toscana e si è un po' arrabbiato con Moretti, che sarebbe l'amministratore appunto delegato. Sentiamo cosa ha detto. Siamo proprio alla debacle del servizio. Lo telefonerò subito anche a Moretti. Chiederemo subito a Trenitalia un piano minimo di manutenzione, altrimenti non pagheremo. Questo non si può definire un servizio su cui i cittadini possono contare. Insomma, dice che telefonerà a Moretti, quindi a Zanchini, a chi deve telefonare? Alla Regione Toscana, cioè a se stesso? Scusi, se ancora io non ho ben capito questa cosa. Allora, la Regione Toscana deve sicuramente telefonare a Moretti, ma deve essere anche in qualche modo capace l'anno prossimo, quando gli scadrà il contratto di servizio, perché in ogni regione solamente c'è un contratto di servizio che dura 6 anni e che nella maggior parte delle regioni scadrà l'anno prossimo, dovrà ridefinire il contratto di servizio, perché in caso di malfunzionamenti, come ci sono stati anche in questi giorni in Toscana, di ritardi e di treni vecchi, ci siano delle clausole di salvaguardia e in qualche modo dei controlli. Insomma, Rossi fa benissimo, però non dovrebbe andare il Presidente della Regione a controllare i treni, ci dovrebbe essere, come succede all'estero, un sistema pubblico di garanzia con delle agenzie, come succede in qualsiasi paese europeo, che va a controllare quotidianamente il servizio. In Italia ci stiamo arrivando un po' alla volta, troppo in ritardo, ed è questa la ragione per cui i pendolari scontano questa situazione. Le colpe, diciamo, sono distribuite tra lo Stato, che negli ultimi 3 anni ha ridotto del 25% i trasferimenti, la famosa finanziaria dei Tremonti del 2010 ha ridotto il 25% i trasferimenti, le regioni però, dove non sono tutte uguali, perché appunto ce ne sono alcune che hanno investito ed è per questo che il Presidente della Regione Toscana Rossi è arrabbiato con Trenitalia, perché la Regione Toscana ha investito risorse proprie. Terzo, Trenitalia, che indubbiamente in questi anni ha guardato con molta più attenzione, diciamo, i nuovi clienti dell'alta velocità da cui guadagna, piuttosto che i pendolari. Quindi la percentuale di colpa, diciamo, di Trenitalia e quindi di necessità di provvedere a questi disservizi, qual è, insomma, quantitativamente, tanto per farsi un'idea? Zanchini. Beh, diciamo che è distribuita equamente tra governo, regioni e Trenitalia. Trenitalia ha delle colpe rilevanti, soprattutto perché in questi anni diciamo non ha messo attenzione al servizio pendolare. Facciamo un esempio: in questi anni non è successo solo che l'alta velocità tra Roma, Milano, verso Torino, anche Salerno, ha prodotto, diciamo, un salto di qualità che gli italiani vedono e percepiscono quando viaggiano su quei treni, indubbiamente sia in Europa quando si sta su quei treni, per la qualità, per la velocità, anche per la puntualità. Poi ci stanno i treni che dipendono dalle regioni, per esempio quelli dei pendolari, che sono appunto non, diciamo, sicuramente non di livello europeo, e poi in più però Trenitalia gestisce con un contratto con il Ministero delle Infrastrutture anche tutti gli intercity e gli altri collegamenti, è pagata per questi collegamenti e negli ultimi anni sono stati tagli e chi prende un intercity normalmente sconta ritardi, i treni sono vecchi e quindi è evidente che in questi anni il paese in qualche modo si è accorciato in alcune tratte e si è allargato in altre, ci sono dei passeggeri di serie A e dei passeggeri di serie B. Non c'è dubbio che Trenitalia abbia giocato un ruolo, a nostro avviso però il ruolo principale l'ha giocato l'assenza totale della politica. In questi anni si è parlato di infrastrutture, non si è parlato assolutamente di trasporti, in particolare di treni che dovevano circolare, i treni dovevano essere garantiti, insomma di diritti dei cittadini. Zanchini, sentiamo allora a sua difesa l'amministratore Mauro Moretti, ripreso ieri in un'intervista. A proposito di prezzi, proprio in queste settimane si discuteva anche di un aumento degli abbonamenti dei treni per i pendolari. Come Ferrovie dello Stato, come gruppo, non abbiamo nessun aumento in previsione. Gli aumenti li stanno discutendo le regioni, perché sono loro che fanno i biglietti per il trasporto pendolare, noi non incidiamo in questa loro volontà. Qualcuno pensa di dover fare delle fasce diverse di bigliettazione, se lei va in Francia piuttosto che in Gran Bretagna o anche negli Stati Uniti troverà normalmente una bigliettazione a fascia oraria che naturalmente tende a far sì che si voglia incoraggiare la gente a utilizzare i mezzi collettivi che in un'ora e mezza la mattina sono affollatissimi, a spostare magari di solo quarto d'ora o mezz'ora verso un'altra fascia per poter avere un viaggio più comodo e più confortevole. Ha sentito quindi Zanchini qual era la proposta e l'intervista era di Claudio Vanni, la proposta di Moretti di spostare, è possibile secondo lei, visto che avete fatto questo rapporto pendolari a 2013, avrete analizzato anche tutte le tratte dove è possibile fare degli aggiustamenti? Non la condividiamo assolutamente, nel senso che la proposta di Moretti è sostanzialmente dire nelle tratte quelle più frequentate aumentiamo i prezzi perché c'è in qualche modo più domanda e li diminuiamo negli altri, come se i pendolari potessero decidere la propria vita, sono obbligati a degli orari che dipendono dagli orari di lavoro, di apertura degli uffici, di apertura dell'università. Quello che bisognerebbe fare invece è fare investimenti, aumentare i treni soprattutto in quelle fasce orarie, perché è vero che si può riorganizzare il servizio, ci sono soprattutto, immaginiamo una linea che va verso Milano o verso Roma, è chiaro che il forte della domanda è tra le 6:30 e le 9, alle 11 o all'una non è che ci sono molti viaggiatori, per cui si possono spostare i treni. Quello che non è accettabile è che vengano addirittura ridotte in queste fasce. Quello che noi diciamo è i pendolari sono anche disponibili a ragionare di un aumento del prezzo del biglietto e dell'abbonamento, perché una cosa che Moretti dice sempre, su cui ha ragione, è che il prezzo dei biglietti di abbonamento in Italia è molto più basso che negli altri paesi europei, molto vuol dire anche la metà, un terzo. Il problema è che in questo momento è anche la metà, un terzo della qualità del servizio rispetto agli altri paesi. Allora, i pendolari sono anche disponibili a ragionare di questo, se però vedono attenzione e investimenti. Per esempio, una proposta che noi facciamo è quella di reintrodurre una cosa che è stata abolita nel 2010, che era la detrazione del 20% del prezzo dell'abbonamento, perché in qualche modo gli abbonati al servizio di trasporto pubblico regionale o locale sono i cittadini che vanno in qualche modo premiati, a cui dare attenzione, sono anche le persone spesso delle fasce sociali più deboli, per cui si possono aiutare con la detrazione fiscale, che vuol dire anche che ci saranno più abbonamenti e quindi entrano in gioco più risorse per le aziende di trasporto pubblico, un circolo virtuoso. Vediamo. Un altro tema rilevante è quello che in Italia moltissime persone viaggiano senza biglietto e non ci sono controlli. Anche questo non è un favore ai pendolari, significa che c'è disattenzione e poi alla fine poca giustizia, sociale come al solito. Grazie Edoardo Zanchini, intanto vediamo se migliorerà la vita dei pendolari, che se ne parla da tanto tempo. Tra poco ci sarà invece un esponente politico che ha partecipato ultimamente a una grande gara, ma adesso viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. C'è un ospite molto paziente che introdurrò tra pochissimo, però vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi, a partire da questo decreto legge sulle carceri approvato questa sera, varato dal Consiglio dei Ministri per risolvere in qualche modo l'emergenza dei penitenziari, e poi norme per i processi più veloci. Per la riforma elettorale Renzi dice si fa con chi ci sta e chiede al governo di eliminare la web tax. Kiev, per quanto riguarda l'Unione Europea, è sempre più lontana dall'Europa perché Mosca se la ingrazia all'Ucraina facendole un grosso sconto sul prezzo del gas. E poi il Papa, che diventa un'icona anche per i gay americani, dicono è la persona dell'anno. E per il calcio abbiamo sentito Calciopoli 2 anni e 4 mesi nel processo d'appello a Moggi, e poi per le partite truccate indagati Gattuso e Brocchi. E saluto con molto piacere Pippo Civati. Buonasera Civati. Buonasera. Deputato PD e è stato uno dei 3 corridori, diciamo, della gara delle primarie per il PD, insieme a Gianni Cupero e poi Matteo Renzi, che ha trionfato lo scorso 8 dicembre. Civati, faccio una domanda importante adesso. Lei sa di avere degli occhi bellissimi? No, so che Berlusconi pare averlo detto. Sì, purtroppo detto da un uomo, insomma, anche più valore. Non può ricambiare, magari trova qualche altra virtù, diciamo, in Berlusconi. Lei è l'ultimo amore del cavaliere, ha detto in una cena in cui molti sono rimasti sbalorditi. Ha detto, questo Civati è bravissimo, mi piace come parla in TV e ha degli occhi bellissimi. Come le suona? Cerca, un po' la lusinga, un po' cerca, però, no? Ma non più di tanto. Non più di tanto. È in cerca di un leader, di un esponente a cui affidare la sua eredità, un'eredità impegnativa, per cui capisco che stia facendo un po' di talent, come si dice in questi tempi. Sta cercando dei giovani Falchetti, giovani Colombini, insomma, ha cercato tra i vari, ha visto che per il momento nel vivaio di Forza Italia non c'è molto. E appena visto, si sta innamorando di Civati, perché diciamo dall'aspetto naturalmente Berlusconi, come si dice da sempre, grande comunicatore, attento al marketing, all'immagine, ha colto l'immagine, diciamo, apprezzabile di Pippo Civati, la sua giovane età e poi la sua brillantezza, naturalmente non si riferiva soltanto agli occhi, ma gli occhi bucano lo schermo, e già quello è importante, no Civati? Quindi li tenga preziosamente. No, il commento migliore è stato della mia compagna, che ha commentato dicendo oh mio Dio. Questa è stata la risposta di casa Civati. Senta Pippo Civati, la sento in forma, quindi la sconfitta ha bruciato un po', o tanto sapeva, che anche se diceva che insomma, si dice sempre prima di una gara, no, soprattutto in politica. No, ma la sconfitta brucia sempre, anche se è stata una sconfitta per noi più bella del solito, perché partivamo da zero, senza il sostegno di grandi poteri politici e non, insomma era una sfida veramente libera, quindi aver ottenuto un risultato così fa piacere, però le gare si devono vincere. Però Civati, lei intanto ha avuto la soddisfazione che Renzi ha scelto un suo uomo, un civatiano, così l'hanno definito, che Taddei, che è responsabile dell'economia, che non è poca cosa, nella segreteria del PD di Matteo Renzi, no? Sì, anche io l'ho scelto perché Filippo Taddei è proprio bravo, e quindi è una cosa positiva per il PD, non per la nostra proposta, ecco. Cuperlo ha accettato di diventare presidente. Lei si sarebbe non avrebbe sgradito una proposta di qualche tipo nei suoi confronti, Civati? No, io penso che Cuperlo abbia sbagliato e sia una scelta discutibile, per cui gliel'ho sconsigliato. Poi sai, la politica è difficile, magari si fanno anche cose che non dichiaratamente si vogliono fare. Sulla web tax che ne pensa? Che penso Renzi, che abbia ragione Renzi a dire che è sbagliato mettere sui giganti del web. No, non è sbagliato, è che la formula che si era trovata complicava le cose invece di risolverle. E sulla legge elettorale, che Renzi ha detto questa sera si fa con chi ci sta, che sia minoranza, maggioranza, insomma, si fa, si cerca di fare con tutti, ma a un certo punto bisogna farla. Secondo me lui semplifica un po' troppo, però insomma questa è la mia linea: se c'è una maggioranza per il ritorno al Mattarella, si torni al Mattarella. Invece sulle altre... Dica, stavo guardando una cosa. No, prego. Come vede, voglio dire, ci sono cose che ci accomunano e cose che ci differenziano. Questo era chiaro già da prima. E su, appunto, nel programma di Renzi, i punti principali che ha posto al governo Letta come delle priorità, la legge elettorale, il lavoro, lo ius soli, i costi della politica, e mi pare che uno dei temi, se non il tema che divide di più i democratici, sono le unioni civili. Lei aveva proposto addirittura i matrimoni, no, per le persone omosessuali, ricordo anche nel confronto su Sky, l'ultimo confronto. Sì, mi pare che chiamarle civil partnership non sia così intelligente, sia una mossa un po' demagogica, nel senso che così non si toccano i difensori del matrimonio tradizionale, però non si dà neanche rappresentanza alle coppie omosessuali, per cui su questo discuteremo. Il problema per Renzi è avere nella sua maggioranza persone che sono contrarie, se ho capito bene. Sì, infatti, questo bisognerà capire poi a che punto si arriverà, se dovrà dire Renzi a un certo punto non si è trovato l'accordo, insomma staremo a vedere. Invece pare sia stato trovato un accordo in Consiglio dei Ministri su un provvedimento svuota carceri, no? 3.000 detenuti dovrebbero uscire, e leggo proprio solo alcuni messaggi degli ascoltatori. Per esempio dice un ascoltatore, non si firma: vorrei che si preoccupassero più della sicurezza dei cittadini che dei problemi dei carcerati. Tra l'anno scorso e quest'anno quasi tutti i miei amici abbiamo avuto ladri in casa. E poi c'è dunque Corrado che dice: in Italia serve la certezza della pena, devono costruire nuove carceri, non tirar fuori ogni 5 anni la storia del sovraffollamento con l'unico scopo di salvare gli amici degli amici degli amici. E poi invece Luisa che dice: il caro Gasparri ebbe a dire che avrebbero adattato le caserme dismesse in carcere, invece stiamo ancora aspettando. Lei Civati che ne pensa su questo punto? Beh, io penso che non si debba essere cattivi, non escono dal carcere gli amici degli amici. Quello era il caso Cancellieri, diciamo, per sintetizzare, sul quale secondo me abbiamo sbagliato. Si cerca di evitare che ci siano condizioni di illegalità nelle carceri, quindi io non sono sfavorevole. Non conosco nel dettaglio la norma che è stata presentata dal Consiglio dei Ministri, perché non ho avuto ancora modo di guardarla. Cioè, comunque di però, stasera, poi domani. Questo, per esempio, io ho avuto da discutere con Renzi. Renzi era contrario a formule simili, non so cosa mi dirà oggi, però si ricorderà che quando Napolitano propose un indulto, comunque una forma ragionata per abbassare la tensione nelle carceri, perché anche di questo si tratta, Renzi rispose male. Io non ero d'accordo, ecco. Invece, sul proprio brevemente, Civati, sull'ingresso di alcuni rottamati nella direzione nazionale del PD, Veltroni, D'Alema, mentre per esempio è stata esclusa la Finocchiaro, brevemente che ne pensa? Ma guardi, non lo so, io non ragiono in termini di rottamati e non rottamati. Quello che le posso dire è che Renzi aveva con sé molta parte del ceto politico che c'era già, per cui per lui è più difficile distinguere. Avessi vinto le primarie, cosa che non è successa largamente, per cui non è una rivendicazione la mia, è una considerazione banalissima, ci sarebbe stato un ricambio molto più forte. Cercheremo la prossima volta. La prossima volta. Civati. Per chiudere, Letta, sentito, ha detto che se lavorano bene col governo mangeranno il panettone anche nel 2014. Cioè, già lo intravede questo panettone o pandoro, seconda delle preferenze? Sai che porta sfortuna dire questa cosa del panettone, sì. Secondo me. Allora, secondo me questa cosa del panettone bisogna evitarla. Quindi non lo so se finirà il 2014 in questo modo. Certo è che le fibrillazioni da qualche giorno sono aumentate, insomma, questo l'hanno visto tutti. Staremo a vedere, intanto mangiamo quello di oggi, di queste feste, e buone feste a lei se non ci sentiamo intanto, Pippo Civati. Facciamo tanti auguri agli ascoltatori che ne hanno bisogno. Come dire, non solo bisogno, ma credo che la politica debba essere un po' umile di questi tempi. Grazie Pippo Civati, buona continuazione. Grazie a voi, arrivederci. E cambiamo totalmente argomento con Dario Ricci, che è venuto a trovarmi. Dario, parliamo di calcio, ce ne sono tanti di argomenti, ma soprattutto, insomma, questa inchiesta di Cremona di nuovo sulle partite truccate, e sentire che di mezzo c'è un'icona come Gattuso, particolarmente colpito, no? Eh beh, sicuramente è il nome più importante tra i 20 indagati usciti oggi alle prime ore dell'alba. E ricordiamolo però, indagati, quindi non hanno ancora nessun processo esattamente, però insomma è chiaro anche che se la procura di Cremona fa un passo di questo tipo ha in mano delle carte e dei riscontri. Vogliamo forse sentirlo, cioè ce l'abbiamo, sì, Gattuso, sì. Una sua reazione che ha avuto oggi, sentiamolo. È una roba assurda, è una roba incredibile. Mi sento offeso e arrabbiato perché non so veramente cosa vogliono da me. Io non so nemmeno come si fa a truccare una partita, ma veramente. Adesso vediamo cosa esce fuori. Ma io non so nemmeno come si fa. Se tu mi dici come si fa a truccare una partita, io non lo so da dove cominciare. È questo che non riesco a capire. Comunque chiarirei tutto. Ci mancherebbe che chiarirò tutto. Dario, addirittura poi ha detto in serata, se lo proveranno mi uccido. Sono parole che si commentano da sole. Vediamo come proseguirà la cosa. È chiaro che quello che è evidente è che stanno arrivando dalle procure quelle sollecitazioni a un cambiamento che il calcio non ha saputo ancora fino in fondo mettere in atto. Dopo che c'è stata Calciopoli, dopo che ci sono stati scandali di tutti i tipi, adesso hai sentito Moggi in appello. Sì, tra l'altro appena ridotta. Quindi il calcio evidentemente non ha avuto fino in fondo, finora, la volontà per far scattare un repulisti endogeno, e allora ci pensano le procure e staremo a vedere con quali esiti. Senti, quest'ultimo minuto che ci rimane, come truccavano queste partite? Cioè, evidentemente tutti i calciatori allora non erano coinvolti, perché devi dire a quello attenzione a non far gol, attento tu invece. Ma in realtà non servono tutti. Qui proprio i giocatori fondamentali sono, per ovvi motivi, i difensori centrali e i portieri in molti casi, proprio perché sono i ruoli più sensibili e quelli che governano, provano a domesticare il pallone nelle fasi e nelle zone del campo più importanti, nei pressi della porta. Quindi tutto sommato non c'è bisogno di coinvolgere la squadra, bastano pochi, quelli pochi ma buoni, pochi, ma buoni. Si tratterebbe di Palermo-Bologna del 13 aprile, Pescara-Siena dello stesso giorno, Palermo-Inter del 28 aprile, Parma-Atalanta del 5 maggio. Sì, sono alcune delle partite. Perché sono circa 50 partite, 30 di Serie A, e l'ipotesi addirittura che è stata presentata oggi è che anche i prossimi mondiali di calcio fossero già a rischio. Pensa tu, una vera vergogna. Poi vedremo quale sarà l'esito di questa inchiesta, ce n'è una dopo l'altra. Grazie Dario Ricci. Grazie a voi. Ciao Dario, noi ci sentiamo tra qualche minuto.